Pubblicata sulla rivista contemporaneamente Versi, una nuova poesia del poeta Nico Menchini, dal titolo I poeti delle case popolari. Noi, nati laddove il sole tramonta, e sperare persino peccato, dove l'aria odora di miseria e la polvere ricopre le scarpe, noi, ribelli contro un futuro già scritto, nati con voglia di sfogliar pagine invece che stare ad avvitar bulloni, noi non abbiamo raccomandazioni né conoscenza a darci una gran spinta, ma solo il potere dei nostri sogni, forte come la pressione selvaggia della lava che frantuma il vulcano, noi, poeti delle case popolari.